Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Venezia, incendio al polo chimico di Marghera, 2 feriti di cui uno grave. Il comune invita a restare in casa e tenere chiuse le finestre. Dal 3 giugno via libera anche agli spostamenti tra le regioni, fine del lockdown, governo e regioni riunite per la nuova fase 2, ancora tensioni tra il nord e l'esecutivo. E a Milano oggi nubifragio, è esondato il Seveso, via allagate, quartieri in tilt, senza luce. Addio a Ezio Bosso, il maestro pianista che sapeva sorridere. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. Dunque, giornata cruciale per quanto riguarda la fine definitiva del lockdown con l'avvio di questa nuova fase 2 a partire dal lunedì 18 maggio. Le decisioni sono ancora in corso perché c'è il vertice tra il governo e le regioni e poi ci sarà un consiglio dei ministri in giornata tra stasera e domani, la comunicazione ufficiale di Conte. Ne parleremo tra pochissimo, prima però andiamo subito a Venezia per l'incendio. È in corso al polo chimico di Marghera, al deposito di un'azienda chimica, ci sarebbero dei feriti. Il comune invita a restare a casa. Ci colleghiamo con Silva Menetto. Buongiorno Silva. Buongiorno Alessio, buongiorno a tutti. Come dicevate, appunto, in questo momento è ancora in corso l'allarme chimico per tutta la popolazione del comune di Venezia, che questa mattina prima ha sentito squillare la sirena, poi è stata invitata a rimanere in casa e a tenere finestre e porte chiuse, perché dopo le 10, come dicevate, c'è stata questa esplosione nell'impianto dell'azienda di prodotti chimici 3W Sigma di Porto Marghera, cui poi è seguito un violentissimo incendio, una nube impressionante di fumo nero che era visibile a chilometri di distanza, si è alzata dalla zona e subito è scattato, come dicevamo, il piano di emergenza per i cittadini per la possibile dispersione di sostanze chimiche in aria. Sul posto adesso stanno lavorando i vigili del fuoco con squadre provenienti da tutta la regione, ci sono i tecnici dell'ARPAV, dell'Agenzia per l'Ambiente. Non ci sono ancora notizie certe sulla sorte degli operai che si trovavano al lavoro al momento dell'esplosione, si parla di un ferito gravissimo, di 2 gravi e di molti intossicati, ma come dicevo ancora non ci sono dati ufficiali. La viabilità è stata chiusa per 1,5 km e adesso i cittadini stanno aspettando tutti un secondo segnale di sirena per sapere quando questo allarme chimico sarà finito. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Silva Menetto, è possibile che torneremo a collegarci, anzi l'invito a Silva Menetto è a darci eventuali aggiornamenti nel corso di questa giornata su questo incendio al polo chimico di Marghera, in una giornata caratterizzata, tra l'altro, così diamo anche una notizia, dallo sciopero dei colleghi giornalisti dell'ANSA, che in questo tipo di notizie sono naturalmente fondamentali e molto tempestivi. E adesso veniamo, dicevamo, alla giornata politica. Questa mattina riunione governo-regioni, l'ennesima, questa volta però per decidere sullo snodo del 18 maggio. Scade l'attuale DPCM, finisce di fatto il lockdown perché ferme restando le distanze tra le persone e il divieto di assembramento, le regioni saranno libere di stabilire che cosa riaprire, che cosa far ripartire. Si discute anche della data del 3 giugno per gli spostamenti tra le regioni. Sentiamo. Governo al lavoro sulle riaperture per lunedì nel tentativo di rendere la situazione più omogenea possibile. Prima un vertice tra i ministri Boccia e Speranza e governatori e a seguire un consiglio dei ministri che potrebbe varare un decreto quadro per disciplinare gli spostamenti. Tema questo caldo sul quale si sta consumando un braccio di ferro con le regioni. La linea dell'esecutivo è infatti quella di riaprire i confini regionali solo a partire dal 3 giugno, lasciando la facoltà alle regioni di adottare le misure più restrittive in base ai dati sanitari. Ma alcune regioni del nord, come il Veneto, vorrebbero anticipare e già hanno concluso accordi con regioni limitrofe per le visite ai congiunti. Da definire anche il tema delle seconde case, che dal 18 maggio sarà possibile raggiungere solo se nella propria regione. E come si diceva, il capitolo della riapertura delle attività dal 18 maggio, con un DPCM che potrebbe arrivare al massimo nel fine settimana con ulteriori precisazioni. Ma intanto i governatori contestano la distanza minima da tenere nei locali e in spiaggia, mentre il governo potrebbe far salire lo spazio necessario tra le persone da 1 a 2 metri. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Ora veniamo più nel dettaglio di quanto ci attende per quanto riguarda questa riapertura delle attività commerciali molto attese. Mancano ancora le linee guida del commercio al dettaglio, sono già arrivate invece quelle di bar e ristoranti e le regioni sembrano comunque orientate a riaprire quasi tutto. Sentiamo. Da lunedì prossimo potremo tornare probabilmente a fare colazione al bar, a sederci al tavolo per la pausa pranzo, a fare shopping, a uscire la sera al ristorante, probabilmente anche da parrucchieri ed estetisti, forse nelle palestre e centri sportivi, forse in spiaggia. Mancano solo 2 giorni, ma il condizionale è d'obbligo. Il nuovo decreto Conte lascerà alle regioni autonomia decisionale e solo dopo i decreti dei singoli governatori avremo le idee chiare. Mancano solo 2 giorni, scrive Confcommercio, e non sappiamo ancora come dobbiamo organizzarci. Quasi certamente potranno riaprire bar e ristoranti che oggi possono servire i clienti solo per l'asporto. Sarà però vietato il servizio al banco, solo servizio al tavolo con spazi tali da garantire 4 metri quadrati a cliente, suggerisce l'INAIL, spazi che molte regioni vorrebbero rendere più morbidi. Riapriranno le chiese per le messe, riapriranno tutti i negozi, anche se ancora mancano le linee guida INAIL su centri commerciali e abbigliamento. Sono arrivate invece quelle per parrucchieri e centri estetici e quelle del ministro Spadafora per i centri sportivi. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ancora sul tema delle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'INAIL per le attività commerciali, avete appena sentito quali sono, diciamo, le aspettative da questo punto di vista, le distanze da rispettare, soprattutto lo spazio all'interno dei luoghi chiusi. C'è un tema particolare che riguarda la responsabilità dei datori di lavoro, perché anche se queste linee guida non sono obbligatorie, avranno comunque delle ricadute sui datori di lavoro, diciamo, nei confronti dei loro dipendenti. Sentiamo. Rassicurazioni in merito alle preoccupazioni delle imprese sulle responsabilità per eventuali contagi dei dipendenti dopo le nuove norme che caricano la responsabilità civile penale sui datori di lavoro in caso di contagio da Covid, vissuto come un aggravio in una situazione già difficile con l'incertezza nello stabilire dove avviene il contagio, arriva la risposta alla valanga di proteste degli imprenditori dal ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli ai microfoni di Radio 24 intervenendo a 24 mattino. Una preoccupazione giusta quella che stanno segnalando gli imprenditori, imprese che rispettano il protocollo e che consentono ai propri lavoratori di lavorare in sicurezza non possono rispondere di contagi che non possono essere dimostrati essere avvenuti all'interno dell'azienda. Credo che sia un principio che è sacrosanto. È giusto che l'impresa metta in condizioni di sicurezza i propri dipendenti, ma quello è il massimo che possiamo chiedere all'imprenditore. L'allarme è partito giorni fa con una proposta di Confindustria per superare il problema e Patuanelli ha sottolineato che il governo e il Parlamento dovranno occuparsi del tema per mettere nero su bianco questo principio. Il governo e il Parlamento si dovranno occupare di questo tema. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora i numeri del contagio in Italia che continua a diminuire fortunatamente, con l'eccezione però del Piemonte, soprattutto della Lombardia, dove ci sono stati ieri ancora oltre 500 nuovi casi con una percentuale di crescita dello 0,63%. La regione Lombardia tuttavia lancia commenti tranquillizzanti parlando di un tasso di contagio inferiore al dato nazionale. Rosanna Magnano ne ha parlato con Gloria Taliani, docente di malattie infettive alla Sapienza. Sentiamo. Quello che si registra quotidianamente in qualunque situazione epidemiologica è la conseguenza di quello che è successo nelle settimane precedenti. I tempi di incubazione possono essere anche piuttosto lunghi, per cui i pazienti che noi oggi diagnostichiamo sono quelli che si sono infettati nelle settimane scorse. Sulla base di quali parametri possiamo dire oggi che l'R0 in Lombardia è basso? Il fatto che oggi si preveda un tasso di infezione con un R0 al di sotto di 1, quindi una situazione relativa di tranquillità, significa che nelle prossime settimane si vedrà cadere anche il numero dei nuovi casi. I morti sono la conseguenza delle malattie ancora più lontane, quindi i morti di oggi in realtà sono quelli che si sono infettati almeno un mese e mezzo prima. E ora con la cronaca cambiamo decisamente argomento, perché l'Italia è divisa in due dalla situazione meteorologica, con il sud con sole e caldo record, al nord invece avete sentito dalla mattinata forti temporali, piogge record a Milano dove è esondato il Seveso. Violento nubifragio nella notte a Milano, strade allagate, blackout, decine di chiamate ai vigili del fuoco, automobilisti soccorsi nei sottopassi e alberi caduti. A causa delle violenti piogge, intorno alle 3 il fiume Seveso è esondato, allagando, come di consueto, il quartiere di Niguarda a nord della città. In via Valfurva, in particolare, i tombini sono letteralmente esplosi, rilasciando fiumi d'acqua nelle strade. sviluppato in più punti anche il Lambro. Al parco omonimo la comunità Exodus di Don Mazzi è stata evacuata. Molti disagi alla circolazione su strade, mezzi di superficie e metropolitane nelle prime ore del mattino. L'ondata di maltempo interessa tutte le regioni del nord, mentre al sud continuano a salire le temperature, specialmente in Sicilia, dove a mobilitare i vigili del fuoco sono gli incendi, concentrati nel palermitano e nel messinese. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La pagina economica adesso, con i dati Istat sul fatturato dell'industria e gli ordinativi, molto negativo anche il dato arrivato oggi sul PIL tedesco. A marzo, primo mese dell'emergenza coronavirus in Italia, l'industria soffre, con un calo mensile di fatturato e ordinativi intorno al 26%, valori simili a quelli registrati nel 2008-2009 e quanto certifica l'Istat, evidenziando una contrazione soprattutto nel mercato interno, male in particolare i mezzi di trasporto, bene l'industria farmaceutica. Ad aprile, invariati su base annua i prezzi al consumo, a causa soprattutto della flessione dei beni energetici. In salita i prodotti alimentari. Nella zona euro, confermato per il primo trimestre un calo del PIL del 3,8% rispetto al trimestre precedente e del 3,2% su base annua, flessione più forte dal 1995, spiega Eurostat. Le performance peggiori in Francia, Spagna e Italia, quest'ultima meno 4,7%, l'economia tedesca è crollata di oltre il 2%, riduzione più grande dalla crisi del 2008-2009, sottolinea l'Istituto di Statistica. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Lutto nel mondo della musica e dello spettacolo per la morte di Ezio Bosso. Il musicista, compositore, pianista, direttore d'orchestra si è spento oggi all'età di 48 anni. Da quasi 10 combatteva con una malattia neurodegenerativa. Per Ezio Bosso la musica era soprattutto una cosa che fa stare bene. Quando ami profondamente, anche nelle cose più semplici, una persona, la vuoi presentare a tutti e far vedere quanto ti fa bene, non quanto è brava, quanto è bella, quanto è simpatica, ma quanto a te fa bene, e quel bene si trasmette. È un peccato ricordarlo solo per il suo coraggio, le sue lotte, perché era soprattutto un uomo molto simpatico, divertente, amante delle cose belle. Sapeva raccontare, far ridere, far pensare e un momento dopo far commuovere. Direttore d'orchestra, in tempi più recenti divulgatore, innanzitutto per vocazione pianista, e si arrabbiava per non poter più esprimere la sua passione come un tempo. Non posso dare alla musica abbastanza, e vedo già una nuvoletta, ma tu dai tanto altro. No, devo farle tutte le note. Nel momento in cui saprò che non riuscirò più a gestire un'orchestra, smetterò anche di dirigere. Due giorni fa, la sua ultima intervista a Rai News 24 aveva salutato così. E viviamo sempre come se fosse la prima volta, respiriamo sempre come fosse il primo respiro e come se fosse l'ultimo. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13 e 13 minuti, facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco con Effetto Giorno, tutte le altre notizie, ripartiremo dalla giornata di oggi, cruciale, dove si decreterà con ogni probabilità la fine di fatto del lockdown a partire da lunedì prossimo. La base sono i dati del contagio che sono positivi, faremo il punto con Fabrizio Pregliasco. Tutto merito del lockdown che fin qua abbiamo portato avanti, oppure come sembra si inizia a insinuare la possibilità che il virus stia perdendo di forza, e questo cercheremo di capirlo appunto con Pregliasco tra poco. 349-238-6666 per i vostri messaggi, siamo anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Venezia, due feriti di cui uno in gravi condizioni nell'incendio al polo chimico di Marghera. Il comune invita a restare a casa e a tenere chiuse le finestre. Dal 3 giugno via libera anche agli spostamenti tra le regioni. Governo e regioni sono riunite per mettere a punto la nuova fase 2. Ancora tensioni però tra il nord e l'esecutivo. A Milano, nubifragio, è esondato il Seveso, vie allagate, quartieri in tilt, senza luce, ma l'allarme ad essere rientrato. Addio a Ezio Bosso, il maestro pianista che sapeva sorridere. allora, tra poco, come detto, dovremo essere in collegamento con Fabrizio Pregliasco, virologo, tra l'altro milanese, e quindi diciamo in grado anche di farci una fotografia sulla regione Lombardia, che è quella che si attarda di più nei dati del contagio, che sono dati positivi, sono la base dalla quale oggi dovremmo ripartire per la nuova fase 2 a partire da lunedì prossimo. Vi abbiamo già detto che c'è una riunione in videoconferenza tra i governatori e il ministro Speranza, il ministro affari regionali Boccia e il presidente del Consiglio Conte per definire appunto la nuova fase 2 a partire da lunedì prossimo. Questo tra poco. Adesso invece è il momento di un'anticipazione, il reportage di domani mattina su Radio 24 alle 8:15, dedicata a Milano, appunto, che cerca di ripartire. Il titolo è: Milano riparte dal suo motto, tire minnanz. Raffaella Calandra, Rosanna Magnano firmano questo reportage. Sentiamo la voce, una delle tante raccolte, quella di Roberto Vecchioni. Sentiamo. La sento come una bella addormentata, ecco. Il dramma di Milano è che Milano è stata colpita al cuore, è rimasta tra la vita e la morte. Per quanto riguarda economia, lavoro, arte, pensiero, quando si ferma il cuore si ferma la circolazione. Nessuna città, nessun paese, nessuna regione d'Italia potrà sopravvivere se morirà Milano. Questa socialità anche così promiscua e così capace di accogliere chiunque negli stessi bar, esatto, che è la forza un po' di Milano, adesso è un po' sospesa. Secondo me a un certo punto i milanesi affronteranno qualche rischio, non hanno altra possibilità, cioè metteranno su una bilancia la possibilità di una malattia e dall'altra la fine assoluta del loro lavoro. Quindi lei dice ricomincerà in forme diverse, ma dovrà ricominciare tutta questa vita, diciamo, professionale e sociale, che è la cifra di Milano. Non può mancare, come semplicemente uno si svegliasse a Genova e non trovasse più il mare. Il mare per Milano è il suo lavoro, è la sua attività ergonomica, è la sua capacità di confronti, o come perdere tutte le bellezze artistiche di Roma. Roma si è alzata la teglia all'improvviso, non ha più chiese, non ha più la ricchezza splendida di Milano, è la capacità attiva delle persone, la forza attiva delle persone, e quella non va perduta. Minuti, come anticipato è con noi Fabrizio Pregliasco, buongiorno, benvenuto. Ce l'abbiamo? Pregliasco ci sente? No. Non ci sente. È caduta la linea evidentemente con Pregliasco. Allora, il punto di partenza, lo anticipo, di questa intervista sono i dati del contagio, che continuano a essere positivi. Per quanto riguarda, diciamo, l'andamento nazionale, positivo in un doppio senso, che crescono i tamponi effettuati, quindi la nostra capacità di tracciare e di monitorare la situazione, e diminuiscono i casi, con l'eccezione però della Lombardia, dove ci sono 522 casi su un totale di 83.000, e la crescita è stata ieri dello 0,63%. Anche il Piemonte non scherza, 151 casi in più su un totale raggiunto di 29.000, è la seconda regione a questo punto in Italia con una crescita dello 0,52%. I numeri che comunque vanno tenuti sotto controllo. In ogni caso, questa è la fotografia, eccolo Pregliasco, l'abbiamo di nuovo in collegamento, ce l'abbiamo in collegamento. Buongiorno. Eccomi qua. Buongiorno a tutti. Allora, ci descrive qual è l'andamento degli ultimi giorni dell'epidemia, del contagio di coronavirus in Italia a partire dal 4 di maggio. Siamo già in grado, sapendo che i tempi medi dell'incubazione sono 5, 6, 7 giorni, insomma, per poter tracciare una linea. La linea che sta seguendo il governo, riunito adesso con le regioni, e che sembra orientato a dare la fine del lockdown fondamentalmente. Come sta andando? Io ho detto dati positivi, però con l'eccezione un po' più preoccupante di Lombardia e Piemonte. Così? Ma in effetti è così. Poteva esserci già un segnale, diciamo, negativo, cioè di incremento sostanziale nel numero di casi. Bisogna avere ancora un po' di cautela, perché giustamente, come è stato detto, il tempo di incubazione può essere anche più lungo di quello che è passato dalla fase 1.5 del 4 di maggio. Quindi un po' di cautela ci vuole. Devo dire che i dati lombardi comunque sono anch'essi, a mio avviso, non positivi, perché sono rimasti comunque su livelli che, non di crescita, e in più c'è da dire che una quota di soggetti riscontrati positivi, in realtà si sono riscontrati positivi perché finalmente è stato possibile attuare una sistematica, diciamo, raccolta di tamponi, di test, e quindi sono venuti alla luce casi che nel passato erano sfuggiti. Ed è importante dire questo perché l'effetto è un po' paradosso. All'inizio dell'epidemia in Lombardia, per questo tsunami, i dati ufficiali erano sicuramente sottostimati almeno 10 volte tanto. Ora sono molto più precisi, reali. Certo, perché c'è un alto numero di tamponi ogni positivo. Un alto numero di tamponi, e quindi tutto questo in qualche modo permette anche di confermare la capacità del territorio di individuare questi nuovi casi e quindi di prepararsi a quella che dovrà essere per forza una fase di rilascio per favorire l'economia e la vita sociale. Però sarà importante appunto la realizzazione di due aspetti: quello della capacità su tutto il territorio nazionale del tracciamento, dell'individuazione dei casi sospetti, perché ci sarà un rialzo, questo sì, dobbiamo aspettarcelo. Sì. Dobbiamo riuscire però a governarlo, e per governarlo sarà fondamentale una responsabilizzazione di ognuno di noi, ogni singolo cittadino, ad attuare in modo, come dire, sistematico quelle che sono le cose che abbiamo imparato in questo momento, ma non pensare che è finito tutto, liberi tutti. Mi collego esattamente a quello che stava dicendo lei, cioè la responsabilità di ogni cittadino, al di là di questo appello che alcuni storcono il naso perché dicono si fanno ricadere le responsabilità sulle persone, ma c'è tutto un sistema da mettere insieme, sanitario, quello di cui parlava anche lei, la capacità di fare tamponi, eccetera. Io credo che le due cose vadano insieme. Sicuramente sono attualmente in campo dei comportamenti completamente diversi adesso che si sta già allentando, diciamo, il lockdown, già a partire dal 4 di maggio, insomma, non siamo più quelli che eravamo a febbraio e a marzo, quindi sicuramente questo aiuterà a superare questa fase. Però si è molto parlato anche per gli ASCO del fatto che in qualche modo anche il virus, voi virologi l'avete detto, ma anche i clinici che stanno curando le persone negli ospedali, stia in qualche modo, sia meno aggressivo, le persone ricoverate presentano conseguenze meno gravi. È possibile che stia perdendo di forza, uso un'espressione sicuramente non appropriata, questo virus? No, ma rende l'idea, almeno il dato clinico, i clinici ce lo dicono, i pazienti arrivano in ospedale in genere con forme meno pesanti, sicuramente dovute al lockdown, alla riduzione complessivamente dei casi, perché ricordiamolo, questa malattia ha basso rischio specifico, la gran parte dei casi, anzi lo stiamo scoprendo adesso, addirittura è asintomatica, quindi scappa all'osservazione, ed è questo un grosso problema rispetto alla continua e futura possibilità di diffusione. Però dicevo, casi clinici meno pesanti, ad oggi non ancora confermati dal punto di vista delle sequenze genetiche, che quelle fino ad ora eseguite dimostrano una relativa stabilità del virus. Quindi dobbiamo approfondire questa situazione, ma davvero sicuramente è anche in campo questa capacità di riconoscere casi sospetti e soprattutto di trattarli, perché se è vero che non c'è ancora una terapia risolutiva, ma si sta, come dire, per step successivi arrivando, c'è ormai una grande capacità di assistenza dal punto di vista respiratorio, dell'uso di farmaci per ridurre quella che è l'infiammazione, che poi è la causa, tra l'altro paradossale, della polmonite, un eccesso di reazione dell'organismo che poi porta a quelle difficoltà respiratorie conseguenti a questa polmonite. Senta, Pregliasco, sui meccanismi del contagio, adesso cominciamo a sapere qualche cosa di più. Per esempio, è uscito recentemente un articolo di un biologo americano, Erin Bromage, dell'Università del Massachusetts, che è stato molto diffuso, un testo divulgativo sulle modalità appunto del contagio. Spiega che occorre entrare a contatto con una certa quantità di virus per essere contagiati. Spiega la differenza tra un semplice respiro e uno starnuto. In una stanza si può stare anche, diciamo, non attaccati, ma vicini a qualcuno che sta semplicemente respirando, e non è così probabile che si prenda che si venga contagiati. Spiega la differenza tra parlare a voce alta senza precauzioni e parlare normalmente. Ecco, questi aspetti, per esempio il tempo di permanenza nelle vicinanze di qualcuno che è positivo, è un qualcosa che è emerso successivamente, perché all'inizio questo dato non sembrava essere venuto fuori. Invece c'è questo elemento? Sì, questo elemento peraltro in alcune disposizioni era già detto, cioè nella definizione di un contatto stretto, quindi quello più a rischio, quindi per l'individuazione delle persone della stessa famiglia dell'ambito lavorativo, noi si diceva sempre un contatto maggiore ai 15 minuti, proprio perché, così come per tutte le infezioni, è fondamentale essere esposti a una carica virale elevata. Per esempio l'HIV, si sa che un soggetto portatore di questa patologia ha in tutti i fluidi biologici un po' di virus, ma solo nel sangue ha una maggiore concentrazione, e quindi sicuramente anche il dato per il Covid evidenzia nei droplet, quindi nelle goccioline di fluvia, quelle che mettiamo sempre, ma soprattutto starnutendo e tossendo, una grande carica virale. Purtroppo, mi sa, visto proprio la rilevanza che abbiamo compreso degli asintomatici, anche le goccioline più piccole, ma pur sempre in una situazione di esposizione prolungata che porta poi quindi a una sommatoria di virus acquisiti via via che riescono poi questo a però per gli ASCO vuol dire che all'aperto diciamo non è che uno può sentirsi al sicuro, naturalmente, però all'aria aperta, beh, insomma, le preoccupazioni sono molto meno, no? Assolutamente, ed è una questione che appunto riproporrà probabilmente il coronavirus in questa seconda ondata che ci aspettiamo, soprattutto nei mesi autunnali, quando ci sono gli sbalzi termici che favoriscono anche qui la riduzione delle difese dell'albero respiratorio e soprattutto quelle condizioni di maggior affollamento che abbiamo visto e capito sono poi l'elemento di rischio. Ultimissima cosa le voglio chiedere, c'è un luogo in particolare, una possibile, diciamo, luogo del contagio che la preoccupa a partire dal lunedì prossimo, quando appunto riprenderemo bar, ristoranti, attività, parrucchieri e poi più avanti spiagge, eccetera eccetera, proprio alla luce anche di queste considerazioni che facciamo poco fa, cosa la preoccupa di più? Tutto ciò che avverrà in un ambiente chiuso con tante persone, ma credo che appunto l'organizzazione preventiva e l'abitudine, no, a evitare situazioni di rischio siano l'elemento che ci salverà, e quindi parliamo e pensiamo al scenario peggiore per poter governare al meglio una situazione che sperabilmente non sarà una seconda ondata, ma possibili focolai che sperabilmente si riuscirà e bisognerà contenere. Va bene, grazie Fabrizio Pregliasco, grazie per essere stato con noi. E allora, adesso facciamo una piccola pausa, vi ricordo i vostri messaggi al 349-238-6666, ci trovate anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno, rientriamo tra poco, andremo in Cina, il paese che ha annunciato, tra l'altro, fatto annunci contraddittori, perché i nuovi casi sono molto pochi, 6 nuovi casi a Wuhan, eppure le autorità annunciano di voler fare tamponi a tappeto a tutti gli abitanti, 11 milioni di persone. Allora non si capisce se il contagio è così basso, perché la necessità di fare così tanti tamponi. Vedremo come si tengono insieme le due notizie con il collega Stefano Battaglia, che si trova a Pechino, tra poco. Effetto Giorno. Venezia, 2 feriti, di cui uno grave nell'incendio al polo chimico di Marghera. Il comune invita a restare a casa e tenere chiuse le finestre. È atteso per oggi il Consiglio dei Ministri per il via libera alla fine del lockdown. In mattinata, nuovo vertice governo-regioni, tensioni attorno alla data del 3 giugno per gli spostamenti tra le regioni. Nubifragio a Milano, esonda il Seveso, via allagate, quartieri in tilt, senza luce. Addio a Ezio Bosso, il musicista, il maestro pianista col sorriso che aveva stupito tutti per la sua spontaneità con cui affrontava la malattia. Eccoci qua, di nuovo in diretta con Effetto Giorno, questi titoli delle notizie di oggi, 13:34 minuti, i vostri messaggi come sempre a quest'ora al 348-239-238-6666, oggi non è giornata evidentemente, allora è venerdì. Allora, il messaggio che voglio leggervi è quello di Luciano, perché nei titoli abbiamo detto allarme rientrato a Milano, ma evidentemente la situazione è, insomma, è abbastanza pesante in città per l'esondazione del Seveso, scrive Luciano. Caro Alessio, allarme rientrato a Milano, ma ho appena finito di svuotare il box da 50 centimetri di acqua. È vero, e sappiamo quanto sia pesante ogni volta nel nord della città quando ci sono queste forti piogge, l'esondazione del Seveso. Andiamo direttamente al punto del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. Il punto di Alberto Orioli. Come ogni tanto capita, leggi che partono con buone intenzioni, una volta scritte finiscono per fare disastri. È il caso del combinato disposto tra il decreto Cura Italia e una circolare dell'INAIL che doveva servire al personale sanitario contagiato dal coronavirus per considerare la malattia un infortunio sul lavoro, quindi per poterne avere le giuste tutele e i giusti indennizzi. Bene, peccato che la formulazione usata estende questa fattispecie a tutto il lavoro dipendente, con una formulazione che pone in capo all'azienda, ma a tutte le aziende, la responsabilità civile e penale del contagio. Così l'imprenditore rischia un processo penale se un dipendente prende il Covid-19. Il problema è che, come è noto, ci si può contagiare ovunque e soprattutto l'Italia è piena di persone infette ma totalmente asintomatiche e quindi non riconoscibili se non attraverso il tampone. Le imprese e i lavoratori hanno sottoscritto per tempo accordi sindacali sui protocolli sanitari e sono in atto sforzi significativi sia di investimenti che di organizzazione per consentire il lavoro in piena sicurezza. Urge una riscrittura di quella norma, altrimenti questa solita Italia del codicillo, al posto dell'orgoglio della riscossa, lascia solo rabbia e frustrazione. Ecco noi Gabriele Battaglia. Ciao Gabriele, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, buonasera anzi da Pechino. Buonasera da Pechino, corrispondente appunto da Pechino per la Radio Televisione Svizzera Italiana. Gabriele, torniamo a parlare con te per avere un po' un quadro sull'andamento della situazione in Cina, che è il paese, ricordiamocelo sempre, l'unico che è, diciamo, nella cronologia degli eventi davanti all'Italia per quanto riguarda la diffusione del SARS-CoV-2. Le ultime notizie che abbiamo già anticipato sembrano in qualche modo essere un po' contraddittorie, perché da un lato, dopo alcune settimane quasi senza contagio, si annunciano nuovi casi, ma però pochissimi casi a Wuhan, 6 casi se abbiamo letto bene. Dall'altro però, è notizia proprio delle ultime ore, le autorità di Wuhan pensano e annunciano di voler fare tamponi a tappeto a quasi tutta la popolazione. Si parla di 11 milioni di tamponi, addirittura dando anche un orizzonte temporale di 10 giorni, sempre se abbiamo, diciamo, colto bene le notizie che arrivano dalla Cina. Possibile che sia questo? Ci riesce a contestualizzare questi due annunci che sembrano contraddittori, perché se i contagi sono così bassi, perché c'è la necessità di fare così tanti tamponi, Gabriele? Sì, beh, in effetti bisogna contestualizzare e bisogna ricordare una cosa: tra il 22 di maggio inizia il Yanhui, che è la seduta annuale del Parlamento cinese, quindi un grande rituale politico. Probabile che le autorità di Wuhan, dichiarata ormai con 0 casi il giorno in cui ha riaperto l'8 aprile, probabile che a questo punto, quando gli è scoppiato in casa questo nuovo mini focolaio nel weekend scorso, i 6 casi che hai ricordato, dicano no, noi dobbiamo presentarci totalmente puliti in vista del Yanhui, oppure far vedere che comunque stiamo facendo qualche cosa. Ed è partita questa operazione di testing che ci ha lasciato tutti un po' perplessi, perché ricordiamo i numeri: Wuhan ha 11 milioni di abitanti, si dice che 1 milione sia già stati testati, rimangono 10 milioni. 10 milioni in 10 giorni vuol dire 1 milione al giorno, quanto la capacità a ora ufficiale, poi da affermazioni ufficiali, è di 46.000 test al giorno. Quindi come si fa questa cosa? Bene, allora bisogna fare subito dei distinguo. Innanzitutto si è capito che il termine di 10 giorni varia da distretto a distretto della città. Quindi qualcuno ha iniziato il giorno 12, qualcun altro inizierà il giorno 17, quindi non sono 10 giorni in tutto, sono 10 giorni dilazionati. E poi ci sono già le immagini delle file, queste stazioni di testing, dove fanno appunto questi test, il tampone, no? L'acido nucleico, ci sono queste lunghissime file, ma sono un po' delle stazioni, come dire, portatili, dei banchetti dove fanno queste cose. Quindi hanno aumentato, diciamo, la disponibilità di stazioni dove si fanno. Ecco, ma una cosa ti voglio. Scusa, ti faccio finire e poi ti faccio una domanda. No, dicevo, riusciranno a farcela? Non si sa. Sicuramente testare tutta la popolazione più che soltanto un obiettivo, come dire, indica una direzione più che essere qualcosa che deve essere compiuto assolutamente entro i 10 giorni. Sarà curioso capire se questa direzione poi sarà quella che intraprenderanno anche gli altri paesi, perché sul fatto di fare i tamponi per esempio agli asintomatici si è discusso molto, l'OMS li ha sconsigliati inizialmente, poi adesso si è cambiato idea, si è deciso che no, effettivamente sono fondamentali anche loro, bisogna tamponare il più possibile. La Germania ha sempre fatto molti tamponi rispetto ai casi che aveva, l'Italia un po' meno, adesso stanno aumentando, c'è questo annuncio in Cina, ma dal punto di vista delle tecniche proprio del tampone, quanto tempo prende l'analisi? Perché sappiamo che un tampone richiede alcune ore, cioè le persone che fanno il tampone per strada vengono poi contattate successivamente per telefono, per l'esito, o sono dei test rapidi che diciamo non sono più formalmente dei tamponi come li abbiamo conosciuti fin qua? Perché anche qui c'è la differenza. No, assolutamente il messaggio che viene dato in questo momento alla popolazione di Wuhan è: bravi, avete fatto il test, andate, vi ricontatteremo poi. Ok, quindi il tempo è quello. Un conto poi sugli annunci, un conto è la vita reale. Gabriele, io ti voglio chiedere di raccontarci un po' come queste settimane sono trascorse in Cina, no? Cioè dal punto di vista del come si sta muovendo il paese, di quali sono le attività consentite, quanto sono preoccupate le persone, quanto i luoghi pubblici sono tornati, non dico affollati, ma frequentati. C'è una grande preoccupazione in questo momento per il livello occupazionale. Sono usciti oggi i dati di aprile, dopo, sapete, il disastro dei primi 3 mesi, no? Almeno 6,8 di crescita dei primi 3 mesi dell'anno. Sono usciti i dati di aprile che sembra che vadano leggermente meglio gli indicatori economici, tranne uno, l'occupazione. Siamo a livello più basso a livello di occupazione. E questo è il grande problema, perché sappiamo che il patto sociale che lega il Partito Comunista Cinese alla sua gente è proprio quello di la prospettiva di un benessere graduale. E quindi le misure che faranno e che saranno probabilmente annunciate più in dettaglio dal 22 maggio, proprio in occasione della riunione del Parlamento, e punteranno soprattutto a quello. Punteranno tutto quello, perché sembra che comunque ci sia una forbice tra livello occupazionale e invece economia e così gli altri indicatori economici. Ecco, è la prima volta che la Cina si trova davanti a un problema del genere da decenni. Questo dal punto di vista proprio dell'economia, di come va. Dopodiché, qual è la percezione? Ma oggi viaggiavo in macchina attraverso Pechino e sembra che sia tornato il traffico dei vecchi tempi. Lo dico tra virgolette, nel senso che sugli anelli delle circonvallazioni pechinesi oggi c'erano le file di macchina. Quindi il messaggio che è arrivato, che è un po' quello, insomma, si va verso una normalizzazione, evidentemente è stato accolto dai cinesi. Io credo che ci sia comunque una preoccupazione diffusa, perché la paura a questo punto è della possibile seconda ondata. I grandi esperti, i medici dicono che comunque c'è questo rischio, dicono che tutte le misure precauzionali di controllo non saranno tolte fino ad almeno la fine dell'estate, e tutti aspettano anche di capire quando sarà riaperto il paese agli stranieri. Sapete che ci sono tantissime persone che lavorano in Cina e che sono rimaste fuori. E insomma, tanti casi, tante storie particolari. Quindi, come dicevi all'inizio, c'è comunque questa situazione un po' di contraddittoria, tanti segnali anche diversi tra loro. Senti, Gabriele, noi abbiamo molto raccontato in questi ultimi giorni anche delle accuse degli Stati Uniti, l'amministrazione Trump, alla Cina. Accuse di cui si parla già da tempo, per il fatto di non aver fatto filtrare le informazioni sul virus fin dall'inizio, ma poi le accuse sono diventate più pesanti, perché sono state proprio accuse dirette di aver fatto degli errori nel famoso laboratorio di Wuhan, un laboratorio che, poi lo ricordiamo, per inciso è stato finanziato anche da francesi e americani stessi, per cui nella migliore delle ipotesi hanno, diciamo, anche loro delle responsabilità nell'aver partecipato in quelle modalità a quell'attività di ricerca. Come è stato accolto dai media cinesi questo attacco e le risposte che poi sono state date dal governo cinese? E il governo cinese mantiene sempre un certo distacco rispetto a queste accuse, ribattono dicendo gli Stati Uniti farebbero bene a pensare al problema che hanno in casa loro invece di accusare senza nessun tipo di base scientifica la Cina. Quindi c'è, come dire, rimandano al mittente le accuse, però si fermano un attimo prima rispetto ad annunciare misure, come per esempio, no, Trump ha detto che vuole fermare tutti i rapporti, vuole interrompere i rapporti con la Cina. Ecco, la Cina non dirà mai nulla di questo genere perché non è proprio nello stile diplomatico e così via. E i media, ovviamente i media invece ci vanno, diciamo, un pochino più pesante, quindi ricordano di continuo il fatto che gli Stati Uniti non sono stati capaci di evitare, annunciano il problema del coronavirus, continuano a ripetere quanti morti ci sono stati negli Stati Uniti, sottolineano l'incoerenza degli atteggiamenti dell'amministrazione statunitense e così via. E poi ci sono le misure, semmai, di rappresaglia nei confronti, diciamo, degli alleati più stretti degli Stati Uniti, come il caso con l'Australia degli ultimi giorni, no? Che praticamente l'Australia e la Cina, sì, hanno questo rapporto di export dall'Australia, la carne, tante materie prime, tante commodities, ebbene hanno vietato da 4 mattatoi australiani di esportare la carne in Cina. Sono tutti segnali che politici, anche se poi sono giustificati semplicemente dal punto di vista legale, economico e così via. Va bene, ci fermiamo qua. Grazie Gabriele Battaglia da Pechino. Grazie. Grazie a voi e un saluto agli ascoltatori. 13:46 minuti, facciamo adesso la consueta pausa. Torniamo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo, tra pochissimo.